Terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Non c'era nessuno con cui mantenesse meno segreti che col signor Guest. E non sempre era sicuro, anzi, di averne mantenuti quanti credeva. Guest era andato spesso da Jekyll per affari, conosceva Poole ed era difficile che non avesse sentito parlare di Hyde come intimo della casa. Ora avrebbe potuto trarne delle conclusioni. Non valeva meglio dunque che vedesse quella lettera chiarificatrice del mistero? Tanto più che, essendo un appassionato e buon esperto di grafologia, la confidenza gli sarebbe apparsa del tutto naturale. Il capocommesso, inoltre, era persona di saggio consiglio. Difficilmente avrebbe potuto leggere un così strano documento senza lasciar cadere una qualche osservazione. E proprio lì, chissà, Utterson avrebbe trovato il suggerimento che cercava. «Una triste faccenda», disse, «questa di Sir Danvers. Triste davvero, signore. E ha sollevato una grande indignazione», disse il signor Guest. «Ma quell'uomo era un pazzo, naturalmente. Desideravo appunto la vostra opinione. Ho qui un documento, una lettera di sua mano», disse Utterson. «Si intende che questo scritto resta tra noi, perché non so ancora cosa dovrò farne. Una brutta faccenda, è il meno che si possa dire. Ma ecco qui, è un documento che sembra fatto apposta per voi, l'autografo di un assassino». Al signor Guest brillarono gli occhi, e un istante dopo era già immerso nell'esame della lettera, che studiò con appassionato interesse. «No, signore», disse alla fine, «non è pazzo, ma ha una scrittura veramente strana». «È strano da tutti i punti di vista», disse Utterson. Giusto in quel momento entrò il domestico con un biglietto. «È del dottor Jekyll, signore? M'è sembrato di riconoscere la scrittura sulla busta», si interessò il capocommesso mentre il legale spiegava il foglio. «Niente di privato, signor Utterson?» «Solo un invito a pranzo. Perché? Volete vederlo?» «Un momento solo, grazie», disse il signor Guest. Prese il foglio, lo mise accanto all'altro e procedette a un accurato confronto tra i due. «Grazie», ripeté infine restituendo entrambi. «Un autografo molto interessante». Durante la pausa che seguì, Utterson sembrò lottare con se stesso. «Perché li avete confrontati, Guest?» chiese poi d'un tratto. «Ecco, signore», disse l'altro, «c'è una rassomiglianza piuttosto singolare. Le due scritture hanno un'inclinazione diversa, ma per il resto sono quasi identiche». «Molto curioso», disse Utterson. «È un fatto, come dite, molto curioso», disse il signor Guest. «Per cui io non ne parlerei di questa lettera». «No», disse il signor Guest. «Neanche io, signore». La sera stessa, non appena fu solo, Utterson chiuse la lettera in cassaforte e decise di lasciarla lì. «Misericordia», pensò. «Henry Jekyll, falsario per conto di un assassino». E il sangue gli si gelò nelle vene. Thank you. Lo straordinario incidente del dottor Lanyon. Passò del tempo. Una taglia di migliaia di sterline pesava sulla testa dell'assassino, giacché la morte di Sir Danvers era stata sentita come un affronto all'intera comunità. Ma Hyde continuava a sfuggire alle ricerche come se non fosse mai esistito. Molte cose del suo passato, e tutte abominevoli, erano intanto venute in luce. Si riseppe delle sue inumane crudeltà e violenze, della sua vita ignominiosa, delle sue strane compagnie, dell'odio che sembrava averlo ispirato in ogni sua azione. Ma quanto al luogo in cui si nascondeva, non la minima traccia. Dal momento in cui aveva lasciato la sua casa di Soho, la mattina del delitto, Hyde era puramente e semplicemente svanito. A poco, così, Utterson cominciò a riaversi dalle paure peggiori e a recuperare un po' di calma. La morte di Sir Danvers, finì quasi per pensare, era più che ripagata dalla scomparsa del signor Hyde. Jekyll sembrava rinato a nuova vita, ora che non subiva più quell'influenza nefasta. Uscito dal suo isolamento, riprese a frequentare gli amici e a riceverli con la familiarità e la cordialità di una volta. E se si era sempre segnalato per le sue opere di carità, ora si distingueva anche per spirito religioso. Conduceva una vita attiva, passava molto tempo all'aria aperta. Nel suo sguardo si rifletteva la coscienza di chi non perde occasione per fare del bene. E così, in pace con se stesso, visse per più di 2 mesi. L'8 gennaio, Utterson aveva cenato da lui con diversi amici, tra cui anche Lanyon, e l'occhio di Jekyll era corso dall'uno all'altro come ai vecchi tempi, quando i tre erano inseparabili. Ma il 12, e di nuovo il 14, il legale chiese inutilmente di essere ricevuto. Il dottore era confinato in casa e rifiutava di vedere chiunque, disse Poole. Il 15, dopo un nuovo tentativo e un nuovo rifiuto, Utterson cominciò a preoccuparsi. S'era abituato a vedere il suo amico quasi tutti i giorni, negli ultimi 2 mesi, e quel ritorno alla solitudine l'impensieriva e attristava. La sera dopo cenò con Guest, e quella successiva andò dal dottor Lanyon. Lì almeno fu ricevuto senza difficoltà. Ma atterrì nel vedere come Lanyon fosse cambiato in pochi giorni. In faccia, scritta a chiare lettere, gli si leggeva una sentenza di morte. Quell'uomo di colorito roseo era diventato terreo, emaciato, visibilmente più calvo, più vecchio di anni. E tuttavia non furono tanto questi segni di decadenza fisica a fermare l'attenzione del legale, quanto una qualità dello sguardo, certi particolari del comportamento che sembravano testimoniare d'un profondo terrore. Thank you. Era improbabile in un uomo come Lanyon che un simile terrore fosse quello della morte. Eppure Utterson fu tentato di sospettarlo. Sì, pensò. È medico, sa di avere i giorni contati, e questa certezza lo sconvolge. Ma quando cautamente il legale accennò alla sua cattiva cera, fu con coraggiosa fermezza che Lanyon dichiarò di sapersi condannato. «Ho avuto un grave colpo», disse, «e so che non mi rimetterò. È questione di settimane. Bene, è stata una vita piacevole. Sì, signore, piacevole. Vivere mi faceva piacere. Ma a volte penso che saremmo più contenti di andarcene, se sapessimo tutto. Anche Jekyll è malato», disse Utterson. «L'hai visto?» Lanyon cambiò faccia e alzò una mano tremante. «Il dottor Jekyll!» disse con voce alta, malferma. «Non voglio vederlo né sentirne parlare mai più. Ho chiuso definitivamente con quella persona e ti prego di risparmiarmi ogni allusione a un uomo che per me è come morto!» «Ma via!» disse Utterson. E poi, dopo una lunga pausa, «non c'è niente che io possa fare. Siamo tre vecchi amici, Lanyon. Non vivremo abbastanza per farcene dei nuovi.» «Non c'è nessuno che possa farci niente», rispose Lanyon. «Chiedi a lui stesso.» «Non vuole vedermi», disse il legale. «Non mi stupisce», fu la risposta. «Un giorno, Utterson, dopo che sarò morto, saprai forse come sono andate le cose. Io non posso dirtelo. Ma intanto, se ti senti di parlare d'altro, resta qui e parliamo. E se no, se non riesci a non tornare su questa faccenda maledetta, ti prego, in nome di Dio, di andar via, perché non potrei sopportarlo.» Utterson, appena tornato a casa, scrisse a Jekyll lamentandosi di non essere più ammesso in casa sua e chiedendo la ragione dell'infelice rottura con Lanyon. Il giorno dopo gli giunse una lunga risposta, di colore assai patetico in certi punti, oscuro e ambiguo in altri. Il dissidio con Lanyon era insanabile. «Non biasimo il nostro vecchio amico», scriveva Jekyll, «ma neanche io intendo vederlo più. D'ora in avanti del resto condurrò una vita ritiratissima. Tu dunque non stupirti e non dubitare della mia amicizia, se la mia porta resterà spesso chiusa anche a te. Lascia che me ne vada per il mio oscuro cammino. Ho attirato su di me una punizione e un pericolo che non posso dirti. Se sono il peggiore dei peccatori, sconto anche la peggiore delle pene. Non avrei mai pensato che su questa terra potessero darsi così inumane sofferenze, terrori così atroci. E la sola cosa che tu possa fare, Utterson, per alleviarmi questo destino, è di rispettare il mio silenzio.» Il legale rimase sbigottito. Cessato l'oscuro influsso di Hyde, il medico era tornato alle sue antiche occupazioni e amicizie. Ancora una settimana fa il futuro gli sorrideva, le sue prospettive erano quelle di una maturità serena e onorata, ed ecco che le sue amicizie erano perdute, la sua pace distrutta, l'intero equilibrio della sua vita sconvolto. Un cambiamento così radicale e improvviso faceva pensare alla follia. Ma considerate le parole e l'atteggiamento di Lanyon, doveva esserci una qualche altra più oscura ragione. Di lì a una settimana il dottor Lanyon dovette mettersi a letto e in meno di 15 giorni era morto. La sera del funerale, a cui aveva partecipato con cupa tristezza, Utterson si chiuse a chiave nel suo studio, sedette alla scrivania e al lume di una malinconica candela tirò fuori e mise davanti a sé una busta sigillata. Il sigillo era del suo defunto amico e così pure la sopracitata che diceva: personale, alle mani di G.J. Utterson esclusivamente e da distruggersi chiusa in caso di sua premorte. Di fronte a un'ingiunzione così solenne, il legale rinunciò quasi a procedere. Ho seppellito oggi un amico, pensò, e chissà che questa lettera non possa costarmene un altro. Ma poi, leale ai suoi obblighi e condannando le sue paure, ruppe i sigilli e aprì la busta. Dentro ce n'era un'altra, anch'essa sigillata e con la sopracitata seguente: da non aprirsi che dopo la morte o la sparizione del dottor Henry Jekyll. Utterson non credette ai suoi occhi. Eppure sì, la parola era di nuovo sparizione, come nel folle testamento che già da tempo ormai aveva restituito al suo autore. Ancora una volta, l'idea di sparizione e il nome di Henry Jekyll figuravano insieme. Ma nel testamento quell'idea era nata da un sinistro suggerimento di Hyde per uno scopo fin troppo chiaro e orribile. Mentre qui, scritta di pugno di Lanyon, che cosa poteva mai significare? Il legale fu assalito da una tale curiosità che per un istante pensò di trasgredire il divieto e andare subito in fondo a quei misteri. Ma l'onore professionale e la lealtà verso l'amico morto erano obblighi troppo stringenti, e la busta restò a dormire nell'angolo più riposto della sua cassaforte privata. Se non che, altro è mortificare la propria curiosità, altro è vincerla. E si può dubitare che Utterson, da quel giorno in poi, desiderasse più così vivamente la compagnia dell'amico superstite. Pensava a lui con affetto, ma i suoi pensieri erano frastornati e inquieti. Andava anche a trovarlo, ma provava forse sollievo a non essere ricevuto. In fondo, forse, preferiva chiacchierare con Poole sulla soglia, all'aria aperta e tra i rumori della città, piuttosto che essere ricevuto in quella casa di prigionia volontaria e sedersi a parlare col suo inscrutabile recluso. Poole, d'altra parte, non aveva notizie piacevoli da comunicare. Il medico, a quanto pareva, era sempre più spesso confinato nella stanza sopra il laboratorio, dove a volte dormiva perfino. Era costantemente depresso e taciturno. Non leggeva nemmeno. Sembrava in preda ad un pensiero che non lo lasciava mai. Utterson fece talmente l'abitudine a queste notizie, invariabilmente sconsolanti, che a poco diradò le sue visite. Thank you.